Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Siamo camerati, è nostro dovere combattere con questi massacri. Le vittime le scegliamo a caso, per noi è solo un passatempo. No, non siamo nella Polonia del 1944 e queste frasi non le ha pronunciate Heinrich Himmler, il famigerato capo dell'SS. Sono state snocciolate da un gruppo di adolescenti romani come filosofia del loro nuovo gioco, la caccia al bengalino. Sì, sembra incredibile, ma nell'autunno del 2013 c'è ancora chi si imbeve di questa delirante prosopopea nazistoide e, quel che è peggio, la mette pure in pratica. Sono le squadracce del terzo millennio che al grido di camerata della destra romana, azione, partono dalle... Questo è un servizio del TGcom che parla del Banglatur. Oggi Repubblica dedica una pagina in cronaca romana sul Banglatur, è qualcosa che sta cominciando ad entrare un po' nelle cronache di questi ultimi giorni e questa mattina vorrei confrontarmi con gli ascoltatori per capire, primo, se è un episodio soltanto romano, se in altre città d'Italia si avverte qualcosa di simile o se in più è semplicemente ascrivibile a un gruppo di giovinastri, pazzoidi, teppistoidi, anche vigliacchi, perché il ragazzo intervistato da Repubblica che pratica, è stato arrestato perché pratica questo nuovo sport di andare la sera a farsi il bengalino, cioè andare a cercare gli esercizi commerciali gestiti da bengalesi. A Roma sono soprattutto fruttivendoli, alimentari, sono aperti tutta la notte. Se uno vuole acquistare un chilo d'arance, un grappolo d'uva o un pacco di pasta e di pelati per farsi due spaghetti alle tre di notte, va in un negozio bengalese, c'è sempre un ragazzo lì, ti serve, gentile, te ne vai, non dà fastidio a nessuno. Questo ragazzo dice, intervistato proprio da Repubblica, dice come organizzate questi giri in macchina con qualche amico sul momento. Il Banglatur è il gioco quando finisce la serata con gli amici, dicono facciamoci un bengalino, dice perché lo fate, lo facciamo per scoraggiare gli stranieri a venire in Italia, perché lo fate proprio con i bengalesi, dice ma perché sono piccoli, perché sono tranquilli, perché non si rompono. Vigliacchissimo, che in effetti sono, diciamo, fra le etnie straniere quelle che apparentemente hanno una minor possibilità di dare l'impressione di persone che fisicamente possono avere delle reazioni. Beh, il pezzo di Repubblica di oggi dà anche qualche cifra, sembra che dal novembre 2012 a oggi sono 50 le persone sono andate in ospedale a farsi medicare, anche gravemente feriti. La media quindi è di 4 al mese, una settimana. Ogni settimana c'è a Roma qualcuno che se ne va in giro a fare questo tipo di operazione. I quartieri sono Torpignattara, Largo Preneste, Caselino, Pigneto, ma accade anche altrove. C'è un motivo perché accade, è semplicemente un atto di pura, crudele, sfacciata e ottusa discriminazione, incultura, razzismo, o c'è dietro qualcos'altro, c'è qualcosa di molto più preordinato, preciso? Per questo vorrei capire questa mattina. 800240024. Lo racconto un'inchiesta di Repubblica partita dal pestaggio di un giovane asiatico la notte del 1° maggio scorso. Aggredito senza una ragione, a un certo punto estrae il cellulare come segno di resa pensando a una rapina. I due aggressori lo prendono, sì, ma tra urla di scherno e odio razziale lo buttano nel primo cassonetto. Nella colluttazione, tuttavia, i due persero il proprio, per cui furono facilmente individuati dalla polizia, arrestati, processati e condannati. Dai loro racconti è uscita una realtà di surreale demenza, una campagna di indottrinamento che dalle sedi del partito di Roberto Fiore recluta i giovani meno avveduti, si riempie di concetti tipo nuova crociata o pestaggio ideologico... Andrea Priori, buongiorno. Buongiorno. Andrea Priori è un ricercatore al Dipartimento di Scienza e la Formazione di Roma 3 e presso l'Osservatorio sul Razzismo e Diversità proprio di Roma 3. Avete preso in considerazione questo fenomeno che oggi emerge alle cronache, qualcosa che voi già conoscevate? Vi date spiegazioni oltre, diciamo, alla analisi e al giudizio naturalmente negativo può esserne fatto? Beh, sì, è un fenomeno che noi avevamo purtroppo preso in esame in un periodo che, insomma, ormai qualche anno fa, tra il 2009 e il 2010. Già in quel momento, su tutto lo scenario cittadino, in particolare nella periferia sudorientale, c'era un grosso manifestarsi di aggressioni, appunto, ripetute, soprattutto in alcuni quartieri. E fra l'altro, facendo questo monitoraggio, ne tirammo fuori anche dei dati che sono abbastanza congruenti rispetto a quelli che escono fuori adesso. senso che noi in un periodo di 15 mesi andammo a monitorare complessivamente 56 episodi, quindi insomma a livello numerico siamo assolutamente all'interno dei dati che sono stati recentemente riportati. Lei, al di là dei dati, si è fatto un'impressione personale, visto che è una materia di studio approfondito per lei? Esistono dei motivi che vanno oltre il semplice e bieco episodio di razzismo? Io penso, ma questa è un'ipotesi che faccio adesso, pronto a ripensarla, che possa essere anche legato alla turbativa che dà nell'ordinamento dei negozi dei quartieri romani il fatto ci siano negozi alimentari aperti anche la notte, aperti anche la sera, e questo quindi impedisce alla normale clientela di recarsi in orario consueto. Non vorrei che dietro ci fosse, oltre tutto quello che abbiamo già detto, una preordinata azione di togliere di mezzo una concorrenza che disturba, oltre quello che già abbiamo detto. Guardi, questo è un elemento che sicuramente esiste, nel senso che, senza eccedere nelle generalizzazioni, noi abbiamo rilevato in alcuni episodi, ai danni di esercizi commerciali, delle problematiche di questo tipo. Addirittura in alcuni casi è stato proprio il vicino, ovvero il diretto concorrente commerciale del negoziante bangladese, a portare questa aggressione. È successo ad esempio in un caso all'Esquilino, ma anche in un altro caso nel quartiere di Torbella Monaca. Quindi sicuramente questo qua è una delle gambe sulle quali il fenomeno cammina. Sicuramente quella messa in luce anche dai servizi fatti da Repubblica è un'altra gamba, è un aspetto molto importante del fenomeno, probabilmente rappresenta anche un po' la dorsale. Io, più che interpretarlo come un attacco organizzato da parte degli altri commercianti, metterei quel tipo di recrudescenze sul piano più di una spontaneità, anche se sembra una parola un po' eccessivamente ingenua, mentre invece gli aspetti che noi abbiamo rilevato come più organizzati sono proprio quelli che fanno capo a una certa frangia politica, il che d'altronde ci riporta anche a quelli che sono gli ascendenti storici del fenomeno, poiché questa cosa della caccia al bengalese ricorda molto il Paki bashing, ovvero la caccia al pakistano, che poi insomma per i giovinastri di Londra, del National Front londinese, che andavano a fare questo sport negli anni 70. Quindi c'è un precedente storico, diciamo. Assolutamente, assolutamente, e anche gli stessi bangladesi erano chiaramente coinvolti nel Paki bashing, perché questi giovani non facevano molte distinzioni, sì, diciamo, che non chiedevano il passaporto. C'è sempre comunque l'intento vigliacco di andare a cercare etnie che, almeno da un punto di vista fisico, sembrano le più tranquille, le più mansuete, quelle che meno possono dare problemi, ecco, per un'eventuale reazione. Sentiamo Aldo, buongiorno. Buongiorno. Senta, io voglio dare la mia opinione. Io abito in un quartiere di Roma dove questo fenomeno non esiste, perché non ci sono negozi, non ci sono stranieri, per niente proprio. Però anche, no, per curiosità, qual è questo quartiere che non conosco? Basilio, è abbastanza degradato poi a Roma, però anche i ragazzi di questo quartiere, i padri tutti di sinistra, il quartiere Moara era un quartiere di sinistra, questi ragazzi hanno questa moda, non lo so, è per me ignoranza. Quindi ne ha sentito parlare lei del Bangla Tour? Sì, ma si sente parlare a Roma di questo fatto qua, ma ci sono anche scontri fra di loro. E io penso che sia una moda, perché i ragazzi di questo non sia un qualcosa proprio di razzismo, proprio contro. Non è esattamente come portare i calzoni a campana o mettersi le catenine al collo. Benissimo, che è ancora peggio, ma massacrare di botte esseri umani che non hanno fatto niente di male. Io ho un figlio militare che fa tutte le missioni, perciò. Lei comunque dice nel degrado generale dei punti di valore dei giovani, lo fanno come fosse un normale passatempo. Ho capito, è molto chiaro. Allora, ho al telefono il signor Mukul Liaqat Ali Khan, che è il presidente dell'associazione Pacciala, a Roma, immagino, che è quello che bene o male dovrebbe avere un punto più preciso sulla comunità. Buongiorno signor Mukul. Sì, buongiorno. L'ho fatta ascoltare fino adesso, vorrei sapere cosa c'ha da aggiungere, da integrare rispetto a quello che abbiamo detto. Sì, io ho sentito. Volevo dire, come io sto tanto tempo qui in Italia, a Roma, quindi con la mia esperienza personale, se mi chiede qualcuno, italiani come, è razzista? Io posso dire direttamente che no, italiani non sono razzista. tanti italiani, quasi tutti, sono bravissimi e sono comporta molto bene con stranieri. E questo ci fa piacere, però su questo episodio specifico, a voi risulta comunque, lei quante persone rappresenta, più o meno, per capire? Sì, no, io volevo dire dopo quello che ha detto, sì, che aggressione di razzismo c'è in Italia, questo. C'è tanti, e c'è maggior parte Torbella Monaca, c'è un sacco di aggressione di razzismo in Roma, posso dire questo. E volevo dire che secondo me chi fa queste cose qui, l'aggressione e il razzismo, sicuramente non è una persona normale, per me è malato chi fa questa aggressione. Quindi se giudichiamo che tutti gli italiani sono razzisti, che tutti fanno così, non è vero. Cioè anche noi ce l'abbiamo qualche limitazione. Fatta questa premessa, che ci fa piacere, anche noi siamo italiani, come vede siamo qui a cercare di capire meglio quale sia il problema. Mi dà l'idea di come nella comunità appunto sta circolando questa idea, c'è paura, c'è spavento, c'è comunicazione, oltre a quelli, i numeri dati dal giornale Repubblica, ci sono altre persone che magari non vanno nemmeno a farsi medicare per paura e subiscono l'aggressione. Il fenomeno è più grosso di quello di cui stanno parlando i giornali o siamo in questi numeri? Sì, veramente io non ho letto su Repubblica quello che ha scritto. Allora, fermiamoci un secondo, guardi, siccome diamo la linea alle informazioni del traffico, mi fermo un attimo, sennò la devo interrompere. La domanda è, Repubblica dice sono state 50 persone negli ultimi mesi, quindi di media una persona a settimana è vittima di queste aggressioni. Volevo sapere se nella sua comunità, rifletto un attimo, poi me lo dice, esiste senso di paura? Vi comunicate l'idea che possa esistere, come avviene nelle comunità minoritarie in cui gira l'idea che ci sia un pericolo vero, reale, concreto? Hanno paura le persone che bengalesi che la sera stanno in giro nei loro negozi a gestire le loro attività o semplicemente a fare quello che normalmente possono fare, che qualcuno possa aggredirli? Ci fermiamo fra un istante così mi risponde. Melog, cronache meridiane. Arrivato 15-20 persone dopo rompe tutto. Tutto rotto. Solo di baffanculo poi fatto bastonare tutto rotto. Erano armati con dei bastoni e con delle catene. Con un bastone e poi ferro. Quello che aveva minacciato questa mattina. 20 di più persone. Questa è la cronaca di un raid in un negozio di bengalesi. Mi scrivono ascoltatori via SMS e mi dà molto conferma di quello che posso pensare in generale. Se la polizia italiana facesse rispettare gli orari, queste cose non succederebbero. È Roberto da Bergamo. Quindi se questi non osassero tenere aperti i loro negozi la notte quando gli altri negozi sono chiusi, che non credo che compiano nessun reato se non li farebbero chiudere, questo non succederebbe. Quindi è una lezione. Mario, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io diciamo parto da un'esperienza personale per trarre qualche conclusione più generale. Allora, io abito in un quartiere di Roma diverso da quelli che ha nominato lei. Uh-huh. Abito all'Eur, in un palazzo di professionisti, tutta gente diciamo con mogli impellicciate eccetera. Io ho sposato una donna di colore e diciamo i primi giorni che stavamo lì a casa, mia moglie vestita normalmente stava aprendo il portone e una di queste signore le domanda: lei cosa ci fa qui? Ora, se questa è la mentalità di persone acculturate... Ma no, questa è ignoranza, è pura ignoranza, non è culpa. Può avere anche la laurea questa signora, è pura ignoranza. Però, diciamo, ci sono diciamo persone di tutti i tipi, non razziste e razziste. È chiaro che se la persona che ha tutte le migliori possibilità ragiona in questo modo, è chiaro che a cascata, mano a mano che il livello culturale si abbassa, poi scadiamo in questi episodi qua. Lei dice in generale, se riesco a sintetizzare il suo intervento, non abbiamo una coscienza di reazione così forte, perché tutti noi possiamo essere in vari momenti della nostra giornata presi la tentazione di discriminare un'altra persona semplicemente per come è diverso da noi, per quello che fa e via dicendo. Non sono nemmeno io immune, nessuno è immune, guai a fare i buoni, i puri, però questo essere persone civilizzate significa che uno lavora su se stesso. E lei dice giustamente, se la la signora vede mia moglie, la vede straniera, dice che ci fate qua, pensa subito che è venuta o a rubare o a approfittarsi di qualcosa o chissà cos'altro, vuol dire che ancora non siamo abituati a digerirci il concetto che la nostra si avvia a essere una società multietnica. Basta andare in una scuola elementare e rendersene conto, in molte scuole elementari sono più ragazzi stranieri che italiani. Poi volevo riprendere il discorso con il signor Mukul, che è il presidente dell'associazione Patshala, che sono, diciamo, rappresenta il punto dolente di questa vicenda, cioè i bengalesi verrebbero aggrediti. Ha fatto una riflessione, mi riesce a trasferire, senza averne lei stesso paura di dirlo, se esiste un sentimento di paura diffusa? Ve lo dite fra voi che questo accade, o è semplicemente qualcosa che esce sui giornali che ancora la comunità non sente come un vero pericolo? Pronto? Sì, la sto ascoltando. Sì, no, volevo dire, se Repubblica ha scritto così, è vero, perché io non è finito quello che volevo dire prima, che come italiano sono la stessa, però succede che tante aggressioni, specialmente in negozi di bengalesi, ultimamente, un altro ieri ho sentito un negozio di mio amico, è entrato un gruppo italiani e ha preso un sacco di birre e tante cose, e ha detto che lo scrivi, io pago dopo, e non conosce nessuno. Ecco, ma perché se ne approfittano? Perché sono più indifesi rispetto a altri commercianti, in fondo c'è solo un ragazzo e pensano, siccome è straniero sarà soggetto a mille difficoltà per denunciare, ce ne approfittiamo. Può essere, sì, questo il motivo? Sì, può essere questo, sì. Io penso che può essere questo. Poi qualcuno anche sta bene facendo questo business, negozi, quindi loro, qualcuno forse è geloso, che ma questo sta lavorando, va bene, andiamo a disturbare e prendere un po' di roba così gratis, no? Ecco, come è organizzata, diciamo, l'attività media di un commerciante bengalese che ha un negozio? Io vedo, ne ho molti sotto casa, spesso è la stessa famiglia, si danno i turni, poter coprire un arco di tempo più sono tutti familiari, fratelli, genitori, figli, insomma una gestione familiare, diciamo, dell'attività, sì, commerciale. Sì, più o meno così, è una gestione familiare che può andare più o meno bene, no? Che invece forse qualcuno che ha lavorato un sacco di tempo, risparmiato un po' di soldi e poi ha iniziato a fare questo affari. Quindi c'è un sacco di negozi, quello che vedete voi, no? Di bengalese, un sacco di, specialmente alimentari, forse questo è un po' facile. Alimentare e fruttivendole, e forse questo dà inquietudine il fatto che ci sia, che una comunità straniera comincia a organizzarsi in maniera coerente, che non si limita semplicemente ad andare, non so, a vendere le rose, a fare quelle attività che vengono considerate marginali. Questo potrebbe essere un motivo di preoccupazione. Sono gli stranieri che si stanno organizzando, quindi picchiamoli e scoraggiamoli a diventare come noi. Potrebbe essere un'idea? Sì, no, veramente. Che lo so perché fanno così. Io ce l'ho un negozio di casalinghi, non c'era un baby gang che entrava 8-10 bambini insieme, prendeva tutta la roba e scappava, no? Quindi è successo anche a lei questo? Anche a me, sì. E quante volte è successo questo? Tante volte. Questo era un grosso problema per me, perché non potevo dire a loro niente. Perché... Ma lei ha mai denunciato questo episodio? No, non denunciato, però io stavo cercando il genitore di questi bambini. Io pensavo che forse io, se riesce a parlare con i genitori, loro risolvono questo problema. Ma quanti anni avevano mediamente questi ragazzi? 7, 8, 10, così. 10 anni. Cioè veniva una baby gang di ragazzini 10 anni nel suo negozio più volte a portare via la roba e lei non ha mai detto niente a nessuno? No, poi alla fine una volta io sono bloccato 4 di questi bambini, io chiudo la seranda, per fa paura, il modo che viene qualche genitore che io posso parlare. Invece? Alla fine è venuto un signore con un signora, e lui, io ha detto che grazie che lei è venuto qui, perché io stavo cercando di parlare con lei, signore. E cosa le ha detto il signore? E lui non mi sentito niente, lui mi ha arrabbiato troppo e stava un po' c'è mancato poco che le mettesse le mani addosso. Sì, mancato poco che le mettesse le mani. Ma perché lei non ha mai denunciato questo fatto? Scusi, lei rappresenta la comunità bengalese a Roma. Veramente io volevo risolvere questo problema così, che perché la zona era la rustica, e pensavo che se vado a denunciare poi mi disturba di più questi, no? Poi questi bambini, mi ha detto qualcuno, amici italiani, che vedi, su bambini poliziotti anche non... Però guardi, le dico, purtroppo siamo arrivati alla fine della trasmissione, ma ci tornerò. In questo frangente è emerso molto di più quello che ha scritto Repubblica. Scusi, lei, rappresentante della comunità bengalese, subisce un taccheggio sistematico, continuo, da alcuni ragazzini, non denuncia perché ha paura di denunciare. I genitori che intervengono rischia addirittura che le mettano le mani addosso. La questione, secondo me, rimane aperta. A domani.